Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino. Ehi, buongiorno! Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. A Roma noi abbiamo avuto la prima vera grande prova della capacità di governo di questo grande circo equestre che è il Movimento 5 Stelle. Poi avete visto che si sono moltiplicati i direttori, abbiamo appreso che c'è il direttorio nazionale, poi c'è pure il direttorio romano. Direttorio romano, chi sono? Chi li ha messi? Che fanno? È veramente, veramente una piedigrotta. Not thinking about tomorrow, singing sweet home Alabama all summer long. Questa doveva essere la nuova stagione della trasparenza, dell'onestà, onestà, vi ricordate, saltavano sui banchi, onestà, onestà, ammazzano questa cena. Siete stati voi a dire che avreste governato solo con i monaci trappisti. Dopodiché apprendiamo che non solo abbiamo questa signora che prende 195.000 euro, ma che alcuni dei principali responsabili dei disastri precedenti sono utilizzati nella nuova giunta di Roma. Oh, ma voi state bene con la testa o no? E allora, dove eravate finiti? Dove eravate finiti, cari ascoltatori? Io vi cercavo da 5 settimane alla vostra ricerca. Dove sono andati tutti? Mi giravo, vi cercavo, parlavo al microfono. Oh, siete spariti per 5 settimane, ma si può. Non fate più questi scherzi, Non fate più questi scherzi. Per me sei tanto antipatico che puoi far ferie tutto l'anno. Buongiorno signori, eccoci qua. Vabbè, vi ho ritrovati forse, a giudicare dai messaggi. Al 349-238-6666 ci siete. Stamattina per l'ansia, stanotte per l'ansia mi sono svegliato all'1:30, alle 2:30, alle 3:30. Mamma mia ragazzi. È così. E ti dico sciocchina che come al solito non hai capito un cazzo. Ma che bel comitato d'accoglienza. Ma che bel comitatone d'accoglienza. State facendo il comitatone per il no ad Alessandro Milan. Qui? Lorenzo Nespoli, ti ritrovo ben abbronzato, era sbarcato ieri dalle vacanze, Peter Bescapè invece qui già c'ha la cera di quello che è al lavoro da un po'. Buongiorno a tutti, Roberto da Padova, Luca da Bellinzona, Daniela da Villa Santina, Livia da Bergamo, Luciano da Correggio, Antonio da Babato, non iniziate, Babato. Provincia di Padova, Babato. Lorenzo Nespoli, mi controlli questa, Babato. Controlla quante anime fa Babato in provincia di Padova. Tonio Mimmo da Agazzano, poi c'hai questa, Lorenzo, Agazzano. Babato? A frazione di Vigonza, ma non sei neanche un paese, Babato, non siete neanche comune, siete una frazione di Vigonza, fate i bravi, su, Antonio. Vabbè. Dai, qui come avete capito si riparte per una lunga stagione, siamo felici, siamo contenti, siamo su di giri. E siamo partiti con De Luca, il nostro De Luca. Che settimana, che estate è stata, vabbè, estate soprattutto caratterizzata dal terremoto. Voglio dire alcune cose sul terremoto, prima però voglio circondarmi di due amici. Intanto è lei, c'è lei. Milan lo fa il furbo alla Veronica, che la tua moglie poi ti rinvolta un carzino. Eccola qua, Veronica. Buongiorno. Buongiorno, come stai? Veronica. Bene. Gentili. Ci sei mancato tanto. Non dire così che non è vero. Sì, è profondamente vero, abbiamo sofferto tutti tantissimo. Ma smettila. Tutti proprio. Come? Poi a sapere che stai sempre in giro e che viaggi, capito? Soffriamo. Ma perché viaggiavo? Perché vi cercavo, tutti cercavo gli ascoltatori, non trovavo nessuno. Ah, per quello tutti quei posti. Andavo a cercare. Va bene, Veronica Gentili, insieme a un uomo che io voglio salutare con grande soddisfazione, perché c'era stato un tempo in cui lui passava le ore in tangenziale con gli autisti rumeni che lo superavano da sinistra, a volte anche da destra, litigava a volte, ma adesso lo chiamo con maggiore soddisfazione a quest'ora perché non fa più Mattino 5. È il nostro Federico Novella. Buongiorno Federico. Buongiorno a tutti. E infatti senti come ha sonnato. Perché adesso mi sveglio, capito? Mi sveglio non per dovere, ma per piacere, per parlare con te. Pici? Tu lo sai che piacere si sente. Tu lo sai che è la seconda volta che lo chiameremo, dite no, basta. È chiaro, è finita. Cioè, per la prima puntata te l'ho fatto, però adesso la prossima volta no, mo basta. Esa, non so se arriverò alla fine già stamattina. Federico Novella che adesso passa a condurre. Passa, è già passato a condurre, sì. Il TG4. Sì, alle 19, quindi cambiamo fuso orario. Tu non sai neanche che cosa vuol dire, Alessandro. Ma io infatti vorrei non parlare di nient'altro, ma raccontare questo. Com'è la svolta della vita quando la sveglia alle 5 non suona più? È una bella sensazione, è una bella sensazione. Sì. Poi mi abituerò anche a questo, però saluto il mio camionista rumeno che non vedrò più. Allora, visto che saluti il camionista rumeno, io voglio salutare anche tutti gli ascoltatori che ci sentono dall'estero. Tra l'altro voglio lanciare questa grande novità, visto che ci ascoltate dall'estero in tanti in diretta, scriveteci al 349-238-6666 perché voglio far partire una sorta di buongiorno mondo, a partire magari da lunedì prossimo. Alla fine del Parlamento vorremmo sentire uno di voi ascoltatori pronti a intervenire per raccontarci che succede nel mondo. Posso dire una cosa? Certo, è una ci cazzata. Sei mancato, però ci aspettavamo un video tipo quello di Gianluca Vacchi da parte tua. Sarebbe stato bravissimo, il fenomeno di quest'estate, sì, filosofico, sì. Di quest'estate. Infatti è stata la notizia dell'estate. Aiutatemi un po', perché io sono andato in Malesia, sono andato un po' lontano. Sì, è inutile che adesso fatica. Tu fai figo, capito? Quello alternativo che faceva il Radical Chic in, sì, Malesia. Sì. Tu adesso devi fare il balletto di Gianluca Vacchi e ti devi trovare qualcuna che lo faccia con te. Adesso lanciamo l'appello sui social. Fede, fallo tu. Operativi? No. Stavolta ti frego, protagonista maschile, fai il balletto di Gianluca Vacchi. Allora, quello l'ho visto. Al ritorno, incredibilmente, una delle notizie che più mi ha colpito. Tu non hai guardato nient'altro. Non hai guardato. Visto, no, dai, no. Confesso. No, quello l'ho visto. Vabbè ragazzi, dai, in realtà ci sono tante altre notizie di cui dobbiamo parlare, a cominciare dall'apertura del Parlamento. Allora ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza gente! Veronica, cosa ti abbiamo scovato di Renzi? Non c'è più la Boschi, ma Renzi, che va bene il caffè. Sei contento? Questo è un omaggio proprio personale? No, non ho capito, no, assolutamente no. Di farmi felice facendomi sentire la voce di Renzi di mattina, grazie. Parti così subito con le accuse. Allora, vogliamo partire da Roma, perché oggi c'è Virginia Raggi che fa un'intervista al Corriere della Sera e non è cosa da poco, perché è raro che rilasci interviste. E che cosa dice? Guardala qua. Veronica, attenta, tu che sei di Roma. Sono, sì. Ora sono anche alla Vestiliana, perché tu lo sappia, abbiamo finito la festa del fatto ieri notte alle 4, infatti sono molto lucida. Ma che bello chiamarvi, quindi tu sei andata a letto alle 4. Ti fa piacere, eh? Sì, ho dormito un'ora, tipo, bello. Non facciamo un cervello in due, No, proprio, ma proprio nemmeno mezzo, secondo me. Eccolo qua, Virginia Raggi sul Corriere della Sera, intervistata da Emanuele Buzzi. Ho il sostegno di Grillo, un SMS di sostegno da Grillo, e sull'assessora indagata la Muraro, prima voglio vedere le carte. Insomma, cara Veronica, viene giù tutto a Roma? Io non lo so, aspetto a vedere, a pronunciarmi. Sicuramente i guai ci sono, perché è inutile far finta di niente, mi sembra che ci siano, che ce ne siano tanti di guai. Mi sembra che questa cosa della Muraro sia la ciliegina sulla torta, dopo una settimana abbastanza infausta. Loro stanno cercando di reagire, hanno fatto questa nuova nomina ieri di questo magistrato De Dominicis, che sarà il nuovo assessore al bilancio, e sembra essere, insomma, un uomo molto strutturato, molto consapevole dei conti e dei bilanci di Roma, lavorava alla Corte dei Conti, quindi insomma non si danno per vinti. Io credo che il guaio sia un po' che a un certo punto qualcuno deve diventare la voce portante di Roma, cioè della città, di questa giunta, perché qui continuano a parlare in troppi e ci sono troppe voci dentro allo stesso pollaio. Sì, più che voci mi sembra, questa volta devo dare ragione a Marco Travaglio, lo dico ufficialmente, sono le 6:39 e 54 secondi lo di lunedì 5 settembre. 6 e 40 in questo momento. 40, lunedì 5 settembre 2016. Marco Travaglio. Marco Travaglio, due giorni fa. Ha scritto, a mio modo di vedere in maniera corretta, che mi sembra che a Roma siano divisi nel 5 Stelle con faide da asilo Mariuccia. Questa è la verità. Esatto, ma è cioè vero. Proprio... L'impressione è questa. L'impressione è questa, Federico. No? L'impressione è questa perché... Come un vecchio partito, come i partiti con le correnti, correntine, correntelle... Sì, con la differenza che ogni correntella pensa di dover decidere. Si chiamano appunto direttori nazionali, locali, perché pretendono di dirigere, no? Quindi l'impressione che sia proprio il primo impatto è che ci sia una grande confusione. E poi la sensazione è che sia un partito che io non dubito che siano persone oneste, anzi forse probabilmente questa è la loro forza. Però non sono abituati evidentemente a governare e devono appoggiarsi su altre personalità che evidentemente non conoscono, cioè non hanno la cultura di governo, ma non perché, non è una critica che gli sto facendo, ma perché non hanno mai governato. Non questa esperienza sta venendo fuori ed è venuta fuori dopo 60 giorni. Però questo non ce l'aspettavamo. Questo però è un altro tema interessante sull'inesperienza di governo. Secondo me è un po' il punto, nel senso che è stata anche una delle motivazioni che ha portato quell'ulteriore... giunta nella giunta, che era tutto il gruppo dell'assessore al bilancio Minenna insieme alla capo gabinetto che aveva voluto lui, questa Raineri da cui è partito tutto il caso, no? Sulla nomina della quale è stato chiesto il parere all'ANAC e a Cantone, e poi Rettighieri, i vari direttori dell'AM e dell'ATAC, sì, no? Sì. Quindi il problema si è posto, secondo me, proprio perché sono state chiamate delle professionalità esterne, anche con la volontà di dire non prendiamo, proprio perché abbiamo dei trascorsi diversi dagli altri partiti, degli uomini che vengano dal nostro humus, dal nostro retroterra politico, e prendiamo delle professionalità. Sì, ma anche professionalità esterne, ma ci sono anche proprio dei litigi lì a Roma, all'interno del Movimento 5 Stelle. Questo dai, certo, sì. Ma le professionalità che hanno chiamato, secondo me, erano poi finivano anche col rischiare di essere troppo autonome e di decidere di determinarsi in maniera molto poco legata al sindaco. Però una grande tematica che si vede anche sui giornali è questa, che è un po' quello che porta avanti il 5 Stelle, e vorrei chiedere un vostro parere. Meglio incapaci che ladri. Meglio incapace, perché dicono saremo inesperti eccetera, però meglio questo piuttosto che i corrotti, no? Quello che si è visto fino adesso. Speriamo che ci sia anche una terza categoria, insomma, oltre agli incapaci e ai ladri, perché se siamo costretti a scegliere tra incapaci e ladri siamo messi malissimo, no? Abbastanza. Sì, ma poi questo sarà anche vero, però la categoria degli incapaci, insomma, per essere motivante al governo non mi sembra il massimo che ci si possa auspicare. Ma del fatto che poi ci sono anche gli incapaci ladri, che speriamo di non doverli è una di quelle categorie, insomma, abbastanza diffuse. Che ce ne sono anche tanti, tra l'altro. Comunque, detto questo, mentre siamo pronti a fare tutte le critiche del mondo ai 5 Stelle, perché mi sembra che la situazione si stia mostrando davvero problematica, se uno poi vede le reazioni del Partito Democratico e dei vari esponenti, in primis sì, il nostro adorato De Luca, con cui tu hai pensato bene per sollazzarci proprio con l'ho col fatto rientro, pensando a te, proprio lo sapevo che era una dedica, l'ho molto apprezzato, mi sono quasi commossa. Però ecco, quando poi senti parlare quelli del PD e vedi le idiozie che riescono a dire e come improvvisamente tutto diventa l'avete detto adesso specchio riflesso, vabbè, fanno il lavoro loro dai, stanno godendo, vedono nella possibile frana del 5 Stelle a Roma la frana del 5 Stelle come forza che Senti, possa governare. Ale, dimmi. Quando è che parliamo di quello che è successo alla mostra di Venezia, cioè cose fondamentali, importanti. Tu eri sul red carpet. No, non ero su red carpet. Però vuoi parlare dello spacco inguinale? Di che? Di spacco inguinale? Ma che? C'è l'altro argomento insieme a Gianluca Vacchi di quest'estate. Ti sei presentata con lo spacco inguinale? No, io non c'ero, te l'ho detto che sto la Versiliana, il dono dell'ubiquità ancora non me l'hanno dato, no? Vabbè, allora di chi è sto spacco inguinale? Secondo me quello deve dire, vai. Federico, cosa volevi? No, vorrei avere il vostro parere su questa che è stata, insomma, la notizia principale della ritrovo di Venezia di quest'anno. Me la sono persa, se ce la puoi raccontare. Guarda la suspense, è diventato un incredibile. Maestro Dario Argento. Parlo proprio dell'abbigliamento di queste due signore. Che però, e lo vedi, è lo spacco inguinale. Ma chi? Poi, adesso mi hai messo in difficoltà, meno male che c'è il traffico a questo punto. Una signorina a noi sconosciuta, però ti puoi documentare, Google adesso al volo, infatti, Giulia Salemi Venezia, corri nel traffico. Raga, i tuoi ascoltatori non vedono l'ora di parlarne. È l'argomento proprio principe. No, ma perché se è il caso la faremo anche vedere qui in radio. Guarda, è un po' dolore l'immagine. La foto. Sì, preparati perché non è una cosa leggera. Qua. Giulia Salemi e lo spacco hot a Venezia. Aspetta, inquadra bene, Peter. Più che facciamo hot, vedere. Il problema è il segno del costume, cioè con l'inguine intanto bisogna fare un attimo, no? Lo facciamo vedere, no? Così lo potete vedere tutti, così lo vedete tutti, cari ascoltatori. Questo è lo spacco inguinale di Giulia Salemi. Oddio, a Venezia. Io pensavo fossimo in radio. Mi ero confuso. No, è che siamo in radio, però era bene. La tecnologia che avanza. Ma tu non ti preoccupare, sono le 4 di notte per te. Sono le 5 del mattino. Tu, sono facciamo le 4 così. Di notte. Andiamo, Milan, noi l'abbiamo perso. Io andiamo al traffico, dai, andiamo al traffico. Alino, manda il traffico, dammi il traffico, por favore, il traffico. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta... ...24 mattino. Abbiamo settimane impegnative, forse dormiremo un po' di meno tutti, però sarà anche bello dormire un po' di meno per stare un po' più nei circoli, nei comitati, nelle piazze. Magari vedo un po' meno i miei figli per questo mese, magari questo mese l'abbonamento in palestra non lo faccio perché ho da stare al comitato. Capito Veronica? Il ministro Boschi chiama, si dorme poco e vai a volantinare. Certo, per il ma sì, io, ovviamente. Chiaro, no, ma adesso infatti io già sono 3 giorni qui che lotto alla festa del fatto dicendo ma come per il no, noi siamo tutti per il sì, no? E infatti anche tu Federico sei pronto a andare a volantinare? Guarda, non vedo l'ora, l'invito, l'invito di Mariana Boschi. Comunque scusate, sono qua, Giulia Salemi, eccolo qua, Giulia Salemi si è presentata. Dici parliamo di cose serie. No, vabbè, giusto per chiudere, avevo questo vuoto informativo e ringrazio Federico. Dico novella perché Giulia adesso Salemi sai che poi sulla rete ti scrivono tutti i webeti, come li ha definiti Mentana, e ti dicono: vedi tu che non te ne frega niente, no, parli di questo. Starlet Piacentina si è presentata sul red carpet praticamente senza mutande, ecco, diciamolo così. Ha dichiarato: non sono un esibizionista. E va bene. Chiusa la questione. Federico, vuoi aggiungere qualcosa? Volevi fare un editoriale su questo? No, stavo solo. Era un modo per dire che forse dovremmo riflettere un po' anche noi. Cioè, io ho tirato fuori questa cosa perché è ovunque, sembra vedere, ovunque. Sì. Se questa è stata l'estate di Gianluca Vacchi e della signorina Salemi, forse dovremmo farci delle domande. Abbastanza. Poi è arrivato ovviamente il terremoto, che è questa tragedia che ha tirato via un po' tutte le altre notizie dalle prime pagine dei giornali, e in questi casi fortunatamente. Però sul terremoto io voglio dire questa cosa, voglio fare questa polemica. Io non capisco, seguivo ovviamente dalla Malesia, non è che avevo contezza di tutti gli articoli, eccetera, però non ho mai capito una cosa: perché quando succedono queste tragedie in mani ci sia sempre questo atteggiamento a dire per le polemiche aspettiamo, adesso è il momento del cordoglio, adesso è il momento del silenzio. No! Ha fatto bene il vescovo a dire, come tanti che sono morti per causa umana. Sono vittime due volte queste persone, vittime intanto perché perdono la vita purtroppo, e poi vittime in vita perché gli spacciano una casa per antisismica quando antisismica non lo è. Lo si può urlare anche un secondo dopo il terremoto? O sono troppo, non so, Federico? Sono... Sì che lo si può. Ma sembra che si debba. No, adesso leggevo Alessandro Gassman, adesso tutti zitti! Guarda, mi verrebbe da dire tutti zitti. Rispetto per le vittime anche denunciando le cose. Domande, no? Anzi, si ha maggiore rispetto per le vittime, forse denunciando il fatto che hanno spacciato per antisismiche case che non lo sono, come ce ne sono migliaia in Italia, se non milioni. Io non vorrei essere noiosa di prima mattina e dire che tutto questo è assolutamente vero e sacrosanto, ma secondo me focalizziamoci anche molto su tutto l'aspetto invece della prevenzione e di quello che andrà fatto d'ora in poi, che non è stato fatto. Quindi, al di là della parte di abusi edilizi, appalti truccati, case non messe in sicurezza con dolo, io mi preoccuperei anche invece di tutto questo candore, di questo senso un po' di fatalità che si è avuto fino adesso nei confronti di eventi sismici che invece... Perché ne abbiamo sentite di dichiarazioni, avremo anche il sindaco di Amatrice ospite alle 9 a dire ma una botta così, adesso io lo dico, ripeto, succedesse in Giappone un terremoto del genere, non verrebbe giù neanche una finestra. Giappone? Neanche una finestra un verrebbe del giù. Del nono grado hanno ricostruito un'autostrada di 800 km in 6 giorni. Ecco. Io voglio un giapponese a gestire i fondi del terremoto. In un anno avremo le case già pronte, col sushi già apparecchiato probabilmente. No, devo dire che è incredibile, cioè, come ci sia sempre questo schema ripetitivo, perché purtroppo al prossimo terremoto, siamo un paese anche sismico, assisteremo nuovamente allo stesso schema. Le polemiche che arriveranno dopo, perché prima c'è il cordoglio giusto, necessario, la vicinanza alle vittime. No, ma questo è vero, questo fa parte dell'ipocrisia collettiva sempre, no? Più che ipocrisia, ecco, diciamo di una specie di galateo politico, per cui come l'unità nazionale, no? Sì, per cui sì. Adesso in un momento di emergenza non ci sono polemiche, poi bastano 20 minuti e si finisce per stracci, come sempre. Errani sì, errani no. No, ma voi fate schifo perché usate questo e quest'altro. Quindi fa parte un po' di uno show convenzionale che è stato prestabilito. A me, noi non siamo il Giappone, non lo siamo culturalmente come modo di essere e come temperamento, e questo per alcuni versi è un grosso guaio. È anche vero che noi abbiamo alcune costruzioni che sono storicamente lì, che non sono state rimesse in sicurezza. C'è comunque una fortissima discrasia tra come noi viviamo la modernità e quello che è il nostro territorio. E poi, se noi non facciamo pace con questa cosa e non facciamo dei piani attenendoci a questo e continuiamo a fare piani stretto, capito? Pensando che poi uno possa... Facciamo fatica a gestire il quotidiano, figuriamoci la fatalità. Sì. Figuriamoci la fatalità. Ma sì, ma che piani? Appunto, ci vorrebbero dei piani a pensare alle ristrutturazioni, eccetera. Invece niente. Problema è che il quotidiano è strumentale perché serve per raccattare voti, è tattica. Quindi io faccio delle piccole cose e prendo i voti. Se io faccio un piano strategico vero che sia ventennale, non gliene frega poi niente a nessuno. E se lo dici fai polemiche. Vabbè, insomma, ci sono tre cose che devo dire ancora. Primo, la segreteria telefonica ovviamente non è che l'abbiamo abolita, ma va ricostruita. Quindi chiamate alla segreteria telefonica. Mi sono perso il numero della segreteria telefonica. Vabbè, niente. No. Dobbiamo sostituire 02. Il conduttore. Io parlo, mi rivolgo a Netflix in regia. Vabbè, intanto mandateli via WhatsApp al 349-238-6666 con un audio ottimo e così sicuramente la segreteria telefonica sarà perfetta. Poi, se siete ascoltatori dall'estero, qualcuno ci ha già scritto, guarda qua, da Lusaka ci hanno scritto, pronti a intervenire, voglio che ci raccontiate la prima notizia del giorno, dove siete voi, partiremo magari lunedì prossimo. Ecco, giustamente anche un ascoltatore mi soccorre dicendo 02 4652 4492, ce l'ha registrata sotto Segretel Radio 24. Meno male che ti sei fatto volere bene negli anni, ripeto, se no era la fine. Esatto, ripeto 02 4652 4492. Stiamo mai infatti ringrazio anche Simone dal Basso Vicentino che mi dice bentornato fertilizzante mentale, che non capisco se sia bene un complimento, oppure no, è un mezzo complimento. È un enorme complimento. È un mezzo complimento. È stata anche l'estate del Burkini, questa la devo dire, anche questa. Ragazzi, io giuro, ero in Malesia e quindi metà delle persone, metà delle donne, le donne malesi, essendo musulmane, sono quasi tutte in Burkini. Per cui sentire l'eco di questa polemica che mi giungeva dall'Europa e dall'Italia e dalla Francia mi faceva scompisciare dalle risate. Dico, ma di che cazzo stanno parlando? Del Burkini. C'erano sottosegretari che parlavano, ma delle suore, di come vanno al mare. E io vedevo, mi giravo, c'erano a fianco a me le ragazze in Burkini, quelle malesi, a fianco magari quelle inglesi invece in bikini. Nessuno diceva niente, quella in bikini non diceva niente a quella in Burkini, quella in Burkini non guardava quella in bikini. E dicevo, ma siamo proprio fuori dal mondo. Siamo proprio fuori dal mondo a parlare. Stavolta possiamo non prendercela però con l'Italia, perché stavolta la Francia se la prende tutta questa polemica e se la tiene. Diciamo, se la tiene. Anche questo. Perché qui chi veramente si è mosso male, continuando a persistere poi sulla cosa, è stato valsa. No, ma poi tu sei lì sulla spiaggia, magari pensi al selfie di Veronica Gentili e questi ti parlano del Burkini. Io volevo farvi anche un selfie in Burkini, però non mi sono riuscito a organizzare in tempo. Se riesco nella settimana... Ti prego, il selfie in Burkini lo paghiamo. Federico, lavorerò. Tu quanto sei disposto sarebbe un pezzo raro, sarebbe un pezzo raro. Forse ve lo mando infrasettimanale. Ti prego, Veronica, facci il selfie in Burkini. Cari ascoltatori, che ne pensate? Il selfie in Burkini, sto impazzendo adesso, il selfie in Burkini di Veronica Gentile. Un colore sgargiante. Oggi lo porteremo via col TSO. No, il selfie in Burkini è una cosa veramente... Non attendo altro. Tu non stai bene oggi, Alessandro. Vabbè, è il primo giorno di rientro. No, ma è ritorno. C'ha l'ebbrezza quella delle immersioni, no? Esatto, il rischio dell'ebbrezza. Esatto. No, guarda, manca l'ossigeno. Sono tornato, la prima cosa ho detto. Il dottore che lo riporta tu. Ho detto a Lorenzo Nespoli: senti, aiutami un po', perché non mi ricordo come si leggono i giornali. Proprio non sapevo da che parte si prendevano. Non lo so, dall'editoriale. Insomma, è un po' così. È un rientro complicato, ma ci siamo. Allora, io ringrazio Veronica Gentili. Grazie. Ringrazio Federico Novella, che adesso non troveremo più Mattino 5, ma il TG4 alle ore 19 puntuali. Federico, non ti sveglieremo tutte le settimane. È una promessa che ti faccio. Che dici? Sei contento di questo? Assolutamente sì. Va bene. Mandate allora i vostri messaggi a 02 4652 4492, è la segreteria telefonica, vedi come mi viene bene già, o se no via WhatsApp al 349 238 6666. E poi ripeto, se vivete all'estero, ci ascoltate dall'estero, non fate i furbetti perché controlliamo. Siete davvero residenti all'estero e ci ascoltate, voi scriveteci via WhatsApp oppure anche alla mail 24mattino@radio24.it e noi vi chiameremo in onda, state tranquilli che è una cosa indolore. Ciao al giornale radio e poi la rassegna stampa. Good morning, Vietnam! Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Signori, eccoci qui, sono le 7:19 minuti in punto. Tornato dunque ai microfoni di 24 mattino. Siamo qui più in là fino alle 9:30 andiamo, tutto settembre ci sarà anche Oscar Giannino che ritorna dalle 8:15 per Attenti a noi due. Insomma, lo schieramento è al completo, Lorenzo Nespoli in redazione, c'è anche Elisabetta Fusconi che arriverà. E il nostro Peter Bescapè in regia, ci siamo tutti pronti con la rassegna stampa. Saluto anche Artù. Chi è Artù? Artù è il cane di una nostra ascoltatrice che mi scrive, Meli da Monza scrive: anche Artù ha riconosciuto la tua voce, felice è saltato sul bordo vasca a annusare lo smartphone facendolo cadere. Spero non nella vasca piena ma fuori. Artù, cosa mi combini? Vabbè, un saluto ad Artù. Dai, non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. E allora è lunedì 5 settembre, siamo qui con i giornali, vediamo intanto i titoli di apertura con Il Sole 24 Ore che apre sulle imprese Unione Europea, il labirinto del fisco, questo è il titolo principale, c'è anche Mauro Meazza alle 8:45 qualche minuto prima, in punto, alle ore Meazza in punto, insomma lo sapete bene. Allora, il Corriere della Sera invece ha un'intervista a Virginia Raggi, sindaco di Roma, che dà il titolo di prima pagina: Raggi, ho il sostegno di Grillo. Per Repubblica, Roma, caos, Raggi frena il direttorio. Il Messaggero anche apre su Roma, caso Muraro, Movimento 5 Stelle cambia le regole. Muraro è l'assessore all'ambiente che è indagata, si scopre da 6 mesi. Roma, fuori chi non lavora, questo è il titolo del Fatto Quotidiano, è il proclama alla prima intervista del nuovo assessore al bilancio De Dominicis, è un PM della Corte dei Conti che è andato in pensione da un paio di mesi. Il Giornale invece, tutto sulle nuove pensioni, questo è il piano del governo, e anche Il Giorno titola su questo: ecco la pensione pesante. Per La Stampa invece, le elezioni regionali in Germania, balzo dei populisti, colpo alla Merkel, è il titolo della Stampa. Libero invece, europeisti da baraccone, le 10 rivincite della Brexit, questo è il titolo principale. Da cosa voglio partire però? Sono due storie di cronaca, purtroppo due storie finite male, che però hanno rilanciato l'attenzione sulle cure alternative, non bisognerebbe neanche definirle cure, ma metodi alternativi per trattare malattie gravi, in questo caso tumori. Le storie sono di due donne, una appena diciottenne, Eleonora Bottaro, e l'altra Alessandra Tosi, che sono morte nei giorni scorsi ed entrambe avevano rifiutato le cure come la chemioterapia per affidarsi alle teorie, bisogna dire, strampalate del dottor Hammer, che non è neanche più dottore in Germania. La polemica ovviamente c'è Umberto Veronesi che ne scrive in prima pagina di Repubblica: le false promesse della lotta ai tumori, scrive il professor Veronesi, il cancro non è più una malattia incurabile e le moderne terapie possono salvare la vita salvaguardando anche l'identità psicofisica della persona. A quanti sacrifici di esistenze stroncate per seguire l'illusione di miracolose cure cosiddette alternative dobbiamo ancora assistere per diffondere la coscienza di questa realtà? I due recenti casi delle donne morte per tumore perché hanno rifiutato di aderire alla chemioterapia che poteva salvarle sono una ferita aperta per tutti noi oncologi, ma è anche un grido d'allarme. Perché, scrive Veronesi, non solo per l'ampia comunità dei pazienti e le loro famiglie, ma anche per la società nel suo insieme. Nel nostro paese, purtroppo, la fuga verso false promesse di chi disconosce la medicina e proclama di aver trovato la vera cura contro il cancro o altre malattie gravi non sono una novità. solo da pochi mesi si è conclusa la vicenda di Stamina, laboratorio che, promettendo cure risolutive per malattie neurologiche gravissime che spesso colpiscono i bambini, aveva spinto madri disperate a abbandonare per i figli le terapie scientificamente testate e applicate in tutto il mondo. E insomma, poi Veronesi parla appunto di queste storie e c'è un altro articolo sul Corriere della Sera che mi piace leggere, invece quelle di Veronesi sono ovviamente opinioni da oncologo. Questi invece sono fatti, sono dichiarazioni, e Fabrizio Dragosei, a pagina 29 del Corriere della Sera, racconta, perché è bene che sappiano tutti gli ascoltatori, chi è il dottor Hammer, questo tedesco a cui si affidano alcune persone. Ebbene, i pazienti oncologici, scrive il Corriere, che anche dopo le recentissime morte delle due italiane decideranno di affidarsi alle cure alternative di Rieke Gerd Hammer, devono sapere tutto su questo ex medico tedesco radiato dall'ordine, imprigionato in Germania e in altri paesi per le sue azioni. Egli sostiene che la chemioterapia non curi affatto i tumori e che in realtà non di cancro si tratti, bensì di affezioni psicologiche da affrontare in altro modo. Ma Hammer dice anche altro, sentite qui. In una serie di lettere scritte dall'86 al 2003 ha sostenuto che la chemioterapia è uno strumento inventato dagli ebrei per uccidere i non ebrei. Parla di logge massoniche di Israele che devono assumersi la responsabilità e la colpa collettiva del più orribile delitto di tutta la storia dell'umanità. L'ex medico afferma che da anni gli ebrei usano per i loro simili la sua medicina alternativa e riservano agli altri la perniciosa chemioterapia. Nel 2009 Hammer è andato oltre, dicendo che gli aghi delle siringhe usati con la chemio servono in realtà per impiantare nei pazienti microchip che in un secondo tempo vengono attivati tramite satelliti. Così è possibile uccidere la gente in modo del tutto discreto, come se fossero morti naturali. Si possono anche simulare epidemie. Ecco. No, poi c'è la libera scelta, ognuno faccia ciò che crede, magari con un pizzico di informazione in più che oggi il Corriere dà. La notizia di ieri, come avete sentito anche nel giornale radio e su tutti i giornali, è la canonizzazione della suora albanese Madre Teresa di Calcutta, che è diventata santa, come ha detto il Papa. Ovviamente ci sono tanti articoli, io ve ne voglio sottoporre uno, mi sembra quello più interessante, e cioè la riproposizione che il Corriere della Sera fa a pagina 17 di un vecchio articolo di Tiziano Terzani, che incontrò Madre Teresa di Calcutta nel 1996, dopo aver trascorso 2 settimane a Calcutta con Madre Teresa. Lo scrittore Terzani scriveva: «Avevo appena spento il registratore, la stavo ringraziando per il tempo che mi aveva dedicato quando lei, guardandomi fissa coi suoi occhi azzurri arrossati dall'età, mi ha chiesto: "Ma perché tutte queste domande?" "Perché voglio scrivere di lei, madre." "Non scriva di me, scriva di lui", ha detto alzando gli occhi al cielo. Poi si è fermata, ha preso le mie mani nelle sue grandi, tozze e già un po' deformi, e come volesse confidarmi un gran segreto ha continuato: "Anzi, la smetta di scrivere e vada a lavorare in uno dei nostri centri, vada a lavorare un po' nella casa dei morenti." Madre Teresa era tutta lì. Ho voluto farmi una mia idea della sua opera e, sapendo che per capire Madre Teresa bisogna capire Kalighat, è da lì che sono partito. E già alla porta uno potrebbe bloccarsi disgustato. "Casa per i derelitti moribondi", dice un cartello sbiadito sulla porta. Kalighat è nella periferia sud di Calcutta, una città di per sé disperante e tragica, che a volte sembra essere stata messa da Dio sulla faccia della terra per provare che lui non esiste. È qui che nel 52 Madre Teresa, lasciato l'ordine di Loreto, con cui era arrivata in India nel 28, si mise a prendersi cura di quei disgraziati che, abbandonati da tutti, venivano lasciati a morire per strada. "Una volta mi capitò di prendere un uomo coperto di vermi", mi racconta. "Mi ci vollero delle ore per lavarlo e togliergli uno a uno tutti i vermi dalla carne. E alla fine disse: "Son vissuto come un animale per le strade, ma ora muoio come un angelo." E morendo mi fece un bellissimo sorriso. Tutto qui. Questo è il nostro lavoro. Amore in azione. Semplice. Poi ovviamente continua il lungo racconto di Tiziano Terzani, che però mi sembra la cosa più intelligente pubblicata oggi dai giornali, al di là delle cronache, ovviamente, di quello che è successo ieri, la canonizzazione. Rileggere questa pagina del grande scrittore fiorentino sul Corriere della Sera, la trovate a pagina 17, mi sembra il migliore omaggio a questa vicenda, a questa canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta. Ovviamente torna anche il premio Mani sul Volante per l'articolo che mi fa pensare della giornata. Rimaniamo sul Corriere della Sera e ritorniamo a un grande classico, le denunce di Sergio Rizzo, che denuncia a pagina 19 questo. Udite bene, perché io l'ho dovuto rileggere, la statistica è abbastanza impressionante, l'ho dovuto rileggere 3 volte. Allora, alla Camera di Commercio di Catania spetta un record non invidiabile. È il record italiano degli errori. Pensate che nella prima metà del 2016 le anomalie sui bilanci delle società, di aziende e negozi a Catania, riscontrate a Catania, sono i 2/3 delle anomalie di tutta Italia. Solo a Catania. Catania è il record di errori sospetti nei bilanci di aziende e negozi. Così scrive Sergio Rizzo, succede a Catania ormai da anni, sempre allo stesso modo, sempre più o meno alle stesse imprese, senza che nessuno però se ne sia mai accorto prima d'ora. Ma quando si è accesa per caso una lampadina, è bastato verificare i dati delle ultime annualità per far emergere una situazione allucinante, ed è partito un esposto alla Procura della Repubblica che contiene numeri impressionanti. I 2/3 di tutte le anomalie relative alla presentazione di bilanci di società di capitali rilevate dal sistema informatico camerale si concentrano nella sola Camera di Commercio di Catania. Nel 2010 sono 1958 su 2982, il 65,7%. L'anno seguente il 71,8%, nel 2012 il 67% e così via. Se è vero che nella prima metà del 2016 le anomalie sui bilanci alla Camera di Commercio di Catania sono 379 su un totale nazionale di 649, cioè per capirci il 58,4%, per capirci a un tasso di errore delle altre Camere di Commercio che oscilla tra lo 0 e lo 0,1%, alla Camera di Commercio di Catania il margine è arrivato in certi anni al 14%. E ovviamente, scrive Rizzo, decine di quelle imprese per cui si registrano anomalie sono in odore di mafia. Lo so, è così. A Catania, il record di errori sospetti nei bilanci di aziende e negozi. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan! L'Alessandro Milan dell'informazione, mamma mia! Vabbè, ho capito che le vacanze hanno fatto poco bene anche a voi. Cari ascoltatori, sono le 7:35 minuti, saluto Fabrizio da Cluj, credo sia in Romania, non vorrei dire una bestialità. Ciao Alessandro, mi sei mancato, un caro abbraccio. Anche a te Fabrizio, approfitto, caro Fabrizio, come tutti coloro che ci ascoltano dall'estero, scriveteci al 349-238-6666 oppure via mail 24mattino@radio24.it, il 24 è scritto al numero, 24, scriveteci, perché se volete intervenire a 24 mattino attorno alle 7 del mattino stiamo per partire con una nuova iniziativa, quindi vi chiameremo se siete ascoltatori dall'estero. Allora intanto torniamo alla lettura dei giornali e si impone il caso Roma. Ancora una volta la giunta Raggi un po' in difficoltà, per usare un eufemismo, varie dimissioni. Ora si è scoperto che l'assessore Paola Muraro, assessore all'ambiente, è indagata da qualche mese. Per la verità, dicono la stessa Paola Muraro, non ho ancora visto alcuna carta. fa un'intervista su Repubblica, Paolo Amoraro dice: è un complotto contro di noi, ora denuncerò il marcio, questo attacco non ha precedenti nella storia, chiarirò i fatti comunicati in audizione dal grande affabulatore Fortini. Fortini è l'ex amministratore delegato dell'AMA che è stato cacciato. E dice: i poteri forti sono contro di noi, Paola Muraro. Ma l'intervista forse più interessante, anzi senza dubbio, è quella al sindaco di Roma. Virginia Raggi parla con il Corriere della Sera, con Emanuele Buzzi. Un'intera pagina di intervista, pagina 3. L'assessora indagata, prima di giudicare, voglio vedere le carte. Così dice Virginia Raggi, le regole del movimento sono semplici. L'assessore mi ha garantito che non le è arrivato neanche un avviso di garanzia. Prima di giudicare vogliamo vedere le carte. Attualmente posso giudicare solo i fatti che conosco. La città è più pulita e l'AMA si è messa in moto. Se però dovessero emergere sue responsabilità non avremmo dubbi su come muoverci. Poi parla delle dimissioni, parla per esempio dell'assessore Minenna che ha lasciato al bilancio. Non mi aspettavo le sue dure accuse, conoscevo però il legame di Minenna con Carla Raineri che se n'è andata. In realtà non mi aspettavo neanche le dimissioni della stessa Raineri e di Alessandro Solidoro che era stato chiamato all'AMA dopo Fortini. Racconta però come è nato tutto. Nell'ambito delle verifiche sulle delibere lo scorso 26 agosto ho chiesto all'ANAC, cioè all'Autorità Anticorruzione, un parere sulle nomine ex articolo 90 e il 29 agosto ho chiesto un parere sulla nomina dell'unico contatto ex articolo 110, quello di Carla Raineri. Il 31 agosto è arrivata la risposta a quest'ultima richiesta che dichiarava l'illegittimità della procedura applicata e invitava a ricondurre la nomina all'interno dell'articolo 90. Vabbè, qui è il motivo tecnico per cui poi è nato tutto. Parla Virginia Raggi da parte di Grillo di un SMS di sostegno, ammette di alcuni errori che ci sono stati, ma ora siamo più forti. Grillo mi ha inviato un SMS di sostegno, ma mi permetta di mantenere il riserbo sul contenuto, dice Virginia Raggi, e poi conclude l'intervista dicendo: cosa sceglierete per l'Olimpiade 2024? Diremo qualcosa a brevissimo. Questo è il sunto dell'intervista di Virginia Raggi al Corriere della Sera. Parla anche il nuovo assessore al bilancio al posto di Minenna. Si tratta di Raffaele De Dominicis, è l'ex procuratore regionale della Corte dei Conti del Lazio, è andato in pensione e da due mesi è professore universitario di economia delle amministrazioni pubbliche. È il nuovo assessore al bilancio del Campidoglio, rilascia due interviste, una a Repubblica e una al Fatto Quotidiano. E proprio sulle Olimpiadi parla Repubblica dicendo, questa è la posizione del neo assessore al bilancio, se me lo chiederanno io dirò che si debbono fare. Sono un'opportunità per la città e un evento di interesse nazionale. Dunque il neo assessore al bilancio è a favore delle Olimpiadi a Roma. Riguardo al suo voto dice: non dico che cosa ho votato, il voto è libero, personale e segreto. Le dirò anche che il Movimento 5 Stelle ha successo perché non ha precedenti politici condizionanti. Se poi troverò intenti sotterranei non fanno per me. Nell'intervista invece al Fatto Quotidiano De Dominicis è ancora più duro e dice questo testuale: ora i dirigenti del Campidoglio del settore bilancio dovranno lavorare, la festa con me è finita, io sono un procuratore ma anche un professore universitario, vado in giunta con la competenza che ho, le cose sono cambiate, chi non lavora verrà cacciato, su questo non si scherza. Così dice il neo assessore al bilancio nell'intervista di Valeria Pacelli sul Fatto Quotidiano a pagina 3. Mi permetto di dubitare, non perché non voglia cacciarli o che gli intenti non siano buoni, ma mi permetto di dubitare che in Italia si possa fare una cosa del genere per qualcuno che è un dipendente pubblico. Però insomma stiamo alle attese, ai proclami e agli annunci del neo assessore al bilancio che dice chi non lavora ora verrà cacciato. Boh. Ovviamente il Messaggero si concentra anche invece sull'indagine che coinvolge Paola Muraro che secondo quello che scrive il Messaggero, pagina 3, avrebbe favorito nei suoi anni all'AMA Manlio Cerroni, cioè il RAS delle discariche, che da oltre 30 anni gestisce in monopolio il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti a Roma. Questa è una delle ipotesi della procura, che ha iscritto il nome dell'assessore nel registro degli indagati con le contestazioni di abuso d'ufficio e reati ambientali. Comunque vedremo se questa inchiesta porterà altri problemi o se, come dire, si raddrizzerà la barra, ecco, diciamo così, sulla vicenda di Roma. Ci sono anche varie notizie sulle pensioni, si discute molto delle pensioni, se ne è discusso anche a Cernobbio l'ultimo giorno del workshop Ambrosetti, dove ieri c'era anche il ministro del lavoro Giuliano Poletti. Come racconta Repubblica, in legge di stabilità il prestito flessibile, aumenteremo le pensioni minime. Per il momento sono annunci da parte del ministro del lavoro, non si capiscono bene i meccanismi, anzi lo stesso Poletti ha detto in qualche misura sì, aumenteremo le pensioni minime, anche se dobbiamo trovare la modalità e dobbiamo trovare le forme. Quindi per il momento si tratta di un annuncio. Secondo il Giorno, al governo servono 3 miliardi, solo la metà per le pensioni minime, quindi 1,5 miliardi. Il più modesto e restrittivo intervento sulle pensioni minime, con aumenti di 50-80 euro al mese per 1 milione di destinatari, da solo costerebbe tra i 700 milioni e il 1 miliardo di euro. Se poi si allargasse la platea a tutti i potenziali titolari della cosiddetta integrazione al minimo, la cifra potrebbe anche raddoppiare, arrivare fino a 2 miliardi. Sono stime, ovviamente, di quelle prudenziali di addetti ai lavori abituati a far di conto in materia. Così racconta Claudia Marina, pagina 4 del Giorno. Anche il Giornale mette, con Gian Maria Di Francesco a pagina 3, ecco come cambiano le pensioni. Così il Messaggero, prestito pensionistico, prima i disoccupati. Insomma, sono tutte ipotesi, ovviamente. Per ora c'è il momento, c'è l'annuncio da parte di Poletti, bisognerà capire come poi tutto ciò si concretizzerà. Ma un uomo che è interessato all'argomento, perché è vicinissimo ormai alla pensione, è il nostro graditissimo ritorno, un grandissimo, meno male che c'è l'Inter, Mauro Meazza. Chi parla? Pronto? Pronto? Pronto? Chi parla? Meazza, è Radio Londra, è Radio Londra. Ma è Alessandro Milan, ma è incredibile, sei tornato. Sì, pensavo sì, non rientrassi più. Ho fatto 5 misere settimane di ferie, dai. 5 settimane di ferie, va bene. Non diciamo altro per non scatenare la rivolta popolare. No. E con il tuo permesso, ma sì, anche senza, sì, vado a leggere gli endecasillabi del lunedì, perché oggi è lunedì e quindi io ripartirei con gli endecasillabi. Mi sembra giusto, prego. Concluso delle ferie, è il tempo fatuo e non ci resta ormai che ricordarlo. Fatti non fummo per pagare il mutuo, ma quando acceso l'hai, tocca onorarlo. Allor qui ti sovviene il caro sole, 24 ore canco al lunedì, ti spiega ben con numeri e parole dove puoi risparmiare i tuoi 2 euri. Sui libri per la scuola e in condominio, sì, ne parliamo e non è martedì. Gli esperti, saggi come un vecchio Plinio, ti dan buoni consigli anche oggi dì. E non di sola carta sto annunciando, perché sul tablet resterai di stuc, se la lettura tua m'andrai allungando col provvido ritorno degli ebook. Cali l'oblio, siccome una muraglia, su proprietà cinesi e calcio asiatico. Già sento Pescapè che dice taglia. A lui obbedendo, qui ti lancio il traffico! Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta Alessandro Milan, i Pokémon Go della informazione! Eccoci qua, sono tornati. Va bene, cari ascoltatori. Ovviamente ci sono tante notizie sui giornali. Ringraziamo anche Mauro Meazza. Tranquilli, domani tornerà in sé e rinsavirà. Ci sono tanti articoli sui giornali anche relativi al G20, in Cina. Racconta Guido Santevecchia, pagina 4 del Corriere della Sera, la sfida tra Unione Europea e Cina sull'acciaio. Lo stallo invece sul piano per la Siria. Stati Uniti e Russia trattano su Assad, mentre Erdogan non è più isolato, incontra il presidente americano. i leader che cercano la ricetta per la crescita, tutti dicono sulla crescita mondiale così non va, tutti a parole contro il protezionismo. Fa notare Guido Santevecchi, perché in questi momenti conta anche la forma, che l'inizio del discorso inaugurale del padrone di casa cinese Xi Jinping, cari colleghi, è già un inizio nuovo, è un'espressione che il presidente non usa di solito e che denota spirito di collaborazione, così ha commentato subito un politologo della TV statale. Per la verità, questo desiderio di cooperare, scrive il Corriere, si è fermato al saluto ai colleghi. Perché su molti dossier di questo vertice, che dovrebbe occuparsi anzitutto di trovare politiche di ripresa e crescita economica sostenibili, differenze e contrasti sono evidenti. In più, si sono sommate le frustrazioni per i mancati passi avanti su dossier politici drammatici come la guerra in Siria. Ancora bloccate le discussioni bilaterali tra americani e russi sul modo di fermare la strage siriana, su come aprire un corridoio umanitario per Aleppo, e anche sulla ripresa non ci sono grandi intese. Ovviamente i giornali italiani si concentrano anche un po' su Renzi, sul ruolo di Renzi che si muove tra i leader mondiali, ci si concentra soprattutto sul ruolo e sul rapporto con Barack Obama, presidente americano uscente. Renzi e gli scambi con Obama, dice Renzi, apprezza le nostre riforme. Tra l'altro c'è anche questo siparietto, a un certo punto Obama è andato vicino al ministro delle finanze italiano Padoan, Renzi gliel'ha indicato dicendo ecco un uomo saggio, e il presidente americano ha replicato si vede. Vabbè, sui giornali italiani questi momenti, che sono momenti anche così di scambi di cortesia, vengono raccontati come se fossero delle investiture di potere, o come se fossero degli apprezzamenti e chissà cosa. Comunque, il dato di fatto è questo. C'è anche questo tipo di relazione. Secondo Repubblica, invece, Federico Rampini mette l'accento su un altro tema, quello dell'immigrazione. L'SOS lanciato dall'Europa al G20, aiutateci a superare l'emergenza. Questo è un altro degli importanti temi che sono stati affrontati al G20, sui quali però attendiamo di capire magari alla fine, al termine, nei prossimi giorni, se ci saranno degli elementi concreti per superare questa emergenza, altrimenti l'Europa e in particolare anche l'Italia rischia di rimanere come al solito da sola ad affrontare questa emergenza. Tornando invece in Italia, c'è da dire che si registra una piccata a tratti replica di Joram Gutgeld, che è un deputato del PD ed è il commissario per la revisione della spesa pubblica, piccata replica sul Corriere della Sera a un'intervista che lo stesso Corriere della Sera ieri ha fatto a Roberto Perotti. Roberto Perotti è stato per alcuni mesi il vice di Gutgeld e ieri ha rilasciato l'intervista al Corriere della Sera di un'intera pagina, è la prima volta che parlava dopo che ha lasciato l'organismo per la revisione della spesa pubblica, e in questa intervista Perotti in estrema sintesi ha detto che la spesa pubblica, la revisione della spesa pubblica non si è fatto praticamente niente, ha stroncato la riforma Madia dicendo che anzi aumenterà i costi, e oggi Joram Gutgeld prende carta e penna e fa una lunga replica per punti, mettendo 10 punti sul deficit, sulla riduzione della spesa pubblica, sui risparmi legati alla riforma costituzionale, sul tax credit, sui dirigenti pubblici che percepivano fino a 301.000 euro quando Renzi è diventato presidente del Consiglio e ora si ferma a 240.000, sull'evasione fiscale, sulle partecipate, sulla centrale d'acquisto, sulla riforma Madia, dicendo praticamente tutto il contrario di quello che ha detto Perotti. Deficit, province, enti inutili, ecco i numeri della spending review, così Joram Gutgeld difende l'operato del governo, potete trovarlo a pagina 7. C'è molto anche del terremoto, ancora parla il procuratore di Rieti, Giuseppe Saieva, che dice non voglio consulenze sul sisma, quindi in qualche modo sconfessa i propri magistrati che stanno indagando su possibili responsabilità legate al terremoto. Comunque ne parleremo dalle 9 alle 9.30, mentre parleremo del caso Roma dalle 8.30, dalle 8.20 per la verità alle 9. Saluto anche tutti gli amici che adesso mi stanno seguendo su Facebook, sul mio profilo pubblico, perché è entrato in studio Lorenzo Nespoli per filmare la parte finale della rassegna stampa, parte finale che è dedicata a che cosa? All'analisi di alcuni articoli. Intanto la sconfitta, è vero che sono elezioni regionali, ma sconfitta netta di Angela Merkel e della sua CDU nelle regionali che si sono tenute in Germania. È un primo allarme, secondo tutti gli analisti, per quelle che saranno le elezioni dell'anno prossimo. La destra xenofoba supera Merkel, sconfitta dunque la politica dell'accoglienza. Le regionali in Pomerania, racconta La Stampa, sono a pagina 2, Alessandro Alviani, è stata battuta la cancelliera nel suo Land. E il partito considerato xenofobo dei populisti di destra della AfD è volato al 21,4%, la CDU invece ai minimi storici al 19,1%, tenendo conto che la AfD 5 anni fa non esisteva neanche come partito, e quindi questa Alternative für Deutschland ha conquistato questo 21,4%, e molti vedono in questo una sconfessione totale della linea di accoglienza che proprio un anno fa Angela Merkel aveva inaugurato, soprattutto con i profughi della Siria. C'è anche un altro articolo, sempre sulla Stampa, che un po' inquieta, lo faccio vedere anche per chi mi segue su Facebook. Da Sirte arriva una minaccia all'Italia, Sirte dunque in Libia. È stato scoperto un video di un jihadista tunisino legato allo Stato Islamico. In questo video dice: partiremo alla conquista di Roma. È Francesco Semprini che racconta tutto ciò a pagina 5. Arriveremo dalla Libia, conquisteremo Roma, la minaccia porta al marchio della bandiera nera dello Stato Islamico che campeggia in alto a destra in un video mai pubblicato, un video di 6 minuti dove un adepto di Abu Bakr al-Baghdadi, terrorista di primo pelo, forse tunisino, minaccia espressamente la capitale italiana. Ed è, secondo gli inquirenti, la conferma dei piani di sfondamento sulle sponde del Mediterraneo da parte dell'ISIS in Libia, che emergono sempre più evidenti man mano che Sirte è liberata. Quindi ovviamente c'è grande attenzione e grande timore per questa cosa. Va bene, siamo al momento che molti attendono, il momento che forse vi è mancato per 5 settimane. Eccolo qua, il momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali, è il momento della carta costa, ricordatevelo. E allora sappiate che ieri a Olginate, in provincia di Lecco, ci sono stati i campionati mondiali di nascondino. Peter Bescapè, ah giusto! Tu partecipi, non ti hanno ancora trovato? Sei qua. Nascondino! Ora sognano le Olimpiadi! Nascondino sulla Stampa! Nascondino! Ma chi se ne frega!